quante cose vi avrei voluto parlare, tra un logaritmo e un'equazione, e tutto quello che a scuola, oggi come ieri, si impone. Le cose che ho imparato però, sono davvero tante, perché non credo qui dentro di essere il solo insegnante. E da voi imparo quel che in verità è più importante: saper ascoltare, saper capire e, perché no, anche amare. Ricordo come fosse ieri, io al liceo con i miei compagni, le speranze di timori, i diari che ci passavamo tra i banchi. Mi è più facile se penso ad allora, entrare nei vostri pensieri, darvi fiducia e tra i miei doveri. Ed è così che la mia vita si colora, non me li scorderò, i vostri occhi sulle mascherine che scruto attentamente, emozioni senza fine, per scoprire quello che è nascosto, le paure di sorrisi. Quest'oggi con voi non è un giorno qualunque per me, è come tutti i giorni trascorsi con voi. Sono tutti giorni speciali. Un giorno chissà starete pensando a quando eravate a scuola, a qualcosa sarà servita in fondo o è stata solo una fregatura, e a quel prof che pretendeva di capirvi e cercava di strapparvi un sorriso, non avrà più mente ogni viso, ma farà di tutto per ricordarvi. Non me li sono scordati, i vostri occhi sulle mascherine che scrutavo come per gioco, per andare oltre il confine. Una risata, un pianto finito da poco, ogni giorno con voi non era un giorno qualunque. Non era un giorno.